chiamando, dai, volete che io vieni a casa e faccio sentire, e poi sarà. Adesso mi accendo vinto e ora sto staccato, vedo? Sì. Dove sei? Oh, Peppe! Adesso mi accendo vinto e ora sei stato tutto staccato. Maurizio! Adesso Massimo c'entra, Massimo! No, ma oggi cammino lontano, perché ti fanno appena arrivo alla macchianata? Che se io dalla macchianata rallentano e mi fanno cambiare le mie macchie. Chicos, che è avanti? Ehi, Gare! Cazzo! Ehi, ciao, buonasera! Chi sei? Luca, ciao Antu, sto facendo delle prove. Oh, ciao Luca, buonasera! Aspetta un secondo. Un secondo, Antu. Oh, 9.5 mi arrivi dalla Toronto, è buono il segnale. Io sono minimo di potenza. Ma dai un messaggio, Antu. Ehi, dimmi, aspetta che ti mando un messaggio. Lo vuoi che messaggio ti mando? Sì, è che ti stavo cercando io in bombolo. Invece ti avevo memorizzato con un altro nome. Antonio, avevo messo e basta, ma Antonio venirà in giù in sciarata. Aspetta un attimo, ti mando un messaggio. Antonio, ci sei? Ehi, dimmi, Olu, dimmi tutto. Scusa Antonio, stavo ascoltando il messaggio, dimmi. Ho detto, dimmi tutto Lu. Va bene, sto facendo bene. Ah, non male, là. Microfono normale, considera. Questo è il suo microfono normale. Aspetta che abbassi un po' la potenza, che l'avevo un po' alzata, solo che si è scaldato. Aspetta. Ciao, dove ti arrivo con l'apparecchio? Io sono a potenza minima, minima proprio. Ehi, Claudio. Beh. Ce l'hai fatto bene. Ce l'ha pagata. No, non ti va bene. Ho detto che non è come casa qua, no. No, ti è andato bene. Ehi, oddio, ma fai dubbio. Che sta abbassando la potenza perché l'avevo aumentato un po'. Allora, aspetta, siamo 20, sì, a Puglia, 20 watt adesso. Ah, va bene. 9 abbondante, circa 10x5, va bene. Io sono il microfono originale, ho appena toccato l'equalizzatore qui della radio, appunto. L'ho messo a 5 per via dei bassi sempre, però si può sempre regolare. Vabbè, questo è il microfono normale, il suo microfono normale. Ah, c'è stato così, va bene, non c'è amplificazione, la voce è perfetta, non c'è problema. Kappa, dai, vi lascio che io mi devo preparare, lui già non sai cosa devo fare. Ci sentiamo più tardi, ragazzi. Ciao, grazie, ci sentiamo. Kappa, dai, lui, ci sentiamo dopo, lui. Certo. Hai capito lui quello che ti ho detto poco fa? Ehi, scusa tu, che ero dentro il menù. Dimmi. Ah, sì. Aspetta che riesco ad ascoltarmelo l'ultimo messaggio. Kappa, cosa hai detto lui? No, mi stavo ascoltando i tuoi messaggi, ti ho risposto anche. Kappa. Sì, ti ho sentito. E io ti ho risposto. Devo attaccare a questo sottocarico fittizio per mandare il video appunto al tipo e che glielo provo, gli faccio il video in tutte le bande eccetera eccetera, watt, mica watt eccetera. Dai, già ci sentiamo dopo. Yeah, ok, ciao. E qual è l'intec? Non so, te l'hai tenuto, cos'hai fatto? No, io c'ho il tipo il Texas. Ah, oui, si chiama, dai. È come il Texas. Ma hai capito di chi sto parlando? Cosa? Mi hai capito di chi sto parlando? No, mandamelo tramite telefono. Mi hai sentito? Mi ti ho mandato un messaggio. Anto, ancora ci sei? Io... Prova 10, c'è qualcuno? Binario 10, c'è qualcuno? 10, c'è qualcuno? Attenzione 10, attenzione SQ canale 10. K. Luca, per fare più in fretta, perché hai visto che è lento il coso, come il mio, per fare più in fretta io ho scoperto che dove c'è scritto step, ti appare una lucetta arancione, anche il mio è così, schiacci step e cammina più veloce il VFO. Ma quello per fare i passi direttamente da un megahertz? No, non quello, c'è scritto step, è un pulsante nel frontale, c'è scritto step e ti appare una lucetta arancione, step c'è scritto, lì G, cazzo, non sei G? Sì, provato, F step. Sì. Ma perché non ne avete memorizzato di canali? No, non ne ho mai memorizzato, intanto non mi sembra ne ha 8 come il mio, non ne ho mai memorizzato, forse mi è impresa uscita, intanto le frequenze me le ricordo a memoria, poi via è andata. Al limite adesso tu scendi VFOA, sopra metti VFOB e magari lì ti metti 40 metri, 20 metri, capito? Io nel mio ce l'ho così, non ho memorizzato niente, più veloce. Capito, è più veloce, se no crea a memorizzare, c'è memoria, entrano le memorie, poi di questo che magari ne ha 30, capito, fai dal canale 1 al canale 30 e poi nello 00 metti il 45 al canale 40, ma io sono a 8, devi scegliere i canali dove c'è gente, ma non ho mai nessuno cosa memorizza a fare. Se voi ti puoi memorizzare URM dalla memoria numero 1 alla memoria numero 7, nella memoria numero 8 devono organizzarsi. Ma sai cos'è? Adesso siamo in estate e vanno tutti al mare. Sì, sai che guarda invece ti è arrivato il video, per carità, quasi un telefono dice, adesso la seconda operazione, mi rivela una mano, per prendere quella roba che mi hai mandato la foto, quell'antenna, quella roba là, capito? Che ti ha mandato la foto? Aspetta, che devo cercare anche il telefono, Mi hai mandato la foto di quell'antenna, di quel sistema per ricevere wifi all'interno, noi dobbiamo ordinare quello. Ehi, sentiti con quella persona comunque, te ne sa dire naturalmente di più in base giustamente alla tua zona, ma comunque funziona, te l'ho detto a mio cugino, fate Renato, porca miseria, come ci ha pure buttate così sulle tegole, chi dà sanganza ai ripetitori subito, capito, ti porta il segnale in tutta la casa. No, ma quello mi piace perché l'antenna è bella, la metto sotto il palo dell'antenna TV che c'è più di 2 metri di liberi, capito? Faccio un lavoro fatto bene, il cavo glielo canalizzo assieme a quello della TV e lo faccio entrare dentro casa, viene un bellissimo lavoro, cazzo lui, vai a una radio, minchia, ce ne sono sul canale 10 a dare un controllo a questo turbo che è entrato. Sì, ci sono io, ne ho controlli. Non ci parlo con certa gente io. Guardate che c'è entrata, parlare solo con me. Allora. Fate bravi, che siamo ancora restate. No, comunque lui sta scendendo un bel forte la radio, bella forte. forte, bella, bella, chiara, sì, ottimo. Ottimo, veramente, l'uscio. Sai cosa faccio qui? Ho sentito già Andrea fare quella roba là, ma è la settimana entrante, perché si vede che non c'ha tempo. Così lo attacco al 450 col microfono di Andrea. Va molto bene col microfono Yesol al K450, va molto bene. Io l'avevo già sperimentato nel tempo, con gli anni, avevo fatto tutti gli esperimenti, ti ricordo SM20 con Kenwood, abbinati un po' le cose, andavano molto bene. Va bene. Allora Tino, sto bene? Tino non entra perché non ci parla. Va bene. Sì, bella modulazione veramente. Poi col 140 la colonna esterna ti sto ascoltando divinamente. Cazzo da rimani che parecchi dentro un'italiana. Comunque, anche quel sistema là che stavamo provando ieri, perlomeno io ti sentivo bene. Ti sentivo bene, non certo come questa, ti sentivo bene. Però è chiaro che anche lì vogliono fare un sacco di migliorie, capito? Se no, no non fa. Ma devi considerare anche il microfono che stavo usando, ma l'hai visto? Dagli anni 70, 80, no, forse 70, 70-60, questo microfono, messo appunto, collegato comunque per farlo uscire al mixer, stava spingendo, anche se no non andi a lungo questo microfono. No, ma infatti stava spingendo, perché è chiaro che ci dovevamo un po' più attentare a fare le come si chiama, le regolazioni, insomma, fatte meglio, ecco, tutto qua, però in compenso non ti puoi lamentare, va benissimo la grande. E questa cosa è stata già alzata in picco, va in normale, non posso avere per quello 140, aspetta. Video. Boh, aspetta, sto cercando il telefono. Aspetta che vado a vedere se ti è arrivato. Sì, ti è arrivato. Senti la modulazione. C'è Q10, c'è qualcuno su 10? Sì, c'è il numero 1. Sempre era il numero 1, adesso se ne è andato il numero 3, 4, buono, non so. Beh, posso alza? Sì, tutto a posto. Ma 770 euro e su chi andiamo? Tutto a posto, roba. Tu non ti preoccupare, stamattina ho visto che ero impegnato, quindi mi sono organizzato, abbiamo fatto tutto. C'è Luca anche, Luca Flipper. Dopo non ho sentito, ho chiamato, non ha risposto nessuno. Sta guardando il telefono, gli ho mandato un video, minchia, sta uscendo benissimo, ha montato un'altra radio, è spettacolare. Ma chi, Luca? Sì. Se vuole entrare lo facciamo, sì, vediamo un po' come esce. No, ero sul canale, mi pare 31, ci sono i tedeschi, stanno arrivando 9.30, 9.40 in FM, a bomba. Addirittura, no. Andavamo sul 20 facendo le prove, poi io passiamo sul 10, vediamo se c'è qualcuno, come al solito, sto cercando un certo di cose, di connettori, qua, in normale, non ho mai più, li ho tutti dati, tutti dati, non c'ho più uno spazzone piccolino, niente, guarda. Quella rottura di spalle, non mi serviva una corta, sono tutti lunghi, bisogna vedere accorgersi, cazzo di cosci, vabbè. Che palle, vediamo un po', Luca. E che cannonettore stai cercando qua? No, un ispettore, quelli che mettiamo interni, capito? Aspetta che rispondo al telefono. Sì, ok, tanto chiamo se risponde qualcuno. Attenzione, canale 10, chi ha piacere di ascoltare o di parlare è disponibile il canale. 10, CQ canale 10. Ia, siamo qua. Cosa hai detto qua? Non ho capito. Ho detto ia, siamo qua. Stavo mettendo a posto. Stavo sistemando qua. Cazzo di radio. Tocca andare a Carvate e prendere l'altro ripiano. Ma sta cercando un connettore, non ho capito che connettore sta cercando. Un connettore, gli spezzoni, quelli a 60 cm per mettere interni, capito? Non ne ho neanche uno più, raggi tutti i dadi. sono troppo lunghi, sono da 120, capito? Li avevo fatti tutti per quando era carbonati, per il vintage, e di quelli corti non mangio più, non ammare. Ma allora, io forse uno corto ce l'ho, domani passa e te lo metto da parte, e magari me lo dai a me il lungo, a me mi servono lunghi, infatti mi lascio uno in tira, il coso adesso ormai diciamo dietro, passare dietro viene male, però ne ho uno corto te lo do, se mi porti uno lungo te lo do a te. Quanto per me, c'era da 60 o da 90, vediamo. Forse da 90. No, sono io già pronto, cosa rifai, te lo do io, cosa faccio a rifare. Via via, va bene, va bene. E allora? Sì, ce l'ho, ho fatto la macchina, tutto a posto. Abbiamo fatto tutto, perfetto. Ho messo il millimetro nuovo, non ce l'ho fatto, 170 euro. E niente, adesso vediamo, dovrebbe andare tutto bene. Ma non l'hai provata per te la macchina? Sì, va bene, però magari mi ci cacciato di fetto, allora speriamo di no. Che cacchio, non sai così sfigato, no? Ma dimmi, mentre si staccava direttamente, è che non ci ho pensato a dirtelo, staccavi il filo e ti permetteva di rientrare, rimanevi con la spia accesa, però ti permetteva di rientrare. No, andava in protezione lo stesso, ha provato Gabriele, andava lo stesso in protezione. Allora l'abbiamo riattaccato, già sono arrivato, trucchi trucchi, e poi l'ha sostituito, allora tra le 5 e mezzo. No, io mi servo lì, già lo sai, dopo i lavori che hanno fatto, perché sono veloci, e poi quel ragazzo lo conosco, è il nipote figlio, cioè il Toremano, è molto bravo. No, già in gamba Gabriele. E poi cacchio, sei passato con coso, con Walter, c'era Marco, che siccome vabbè, dato lo racconto in verticale. Guarda, gli ho detto, gira, che sono in fretta, sono venuto a prenderti, io in fretta, perché c'era uno alle punti che lo stava aspettando. Eravamo già al comando dei vigili, toccava rifare il giro, c'era la moglie in macchina anche, capito? Non si poteva fermare. Ma tu dove sei andato con lui? A prenderti la macchina sua? E allora? Allora fare un giro, no, questo non si sta andando al bar a far cosa. Ma cosa? È salito apposta a prendermi e mi ha portato giù a San Giovanni, mi sono preso la macchina e sono risalito, capito? No, infatti io l'ho visto, c'era una persona, una cosa un po' delicata. C'avevamo appunto a metà della per metà con questo. Poi sono sceso alla UPA, avrei fatto tutto un viaggio con te. Io mi sono spostato, siamo andati a mettere moto la macchina, a portarla su, capito? Perché giù nell'altra officina non c'era il meccanico. E quindi l'abbiamo fatta qua a Sassari, vabbè. Tanto adesso vuol fare l'altro tagliando. Appena ritorna il meccanico, glielo apporto e mi faccio fare tutto tagliando, perché abbiamo messo solo il filtro di gasolio e il filtro di olio, facciamo fare tutto il resto. E poi va bene, K. Ma c'era Luca Flipp per me, attendi, non l'ho sentito. No, mi ha mandato un messaggio che c'è gente, già entrato, non è entrato perché c'è il tuo, poi non è potuto. C'è gente, mi ha trovato gente che non posso entrare, ha abbassato il volume e c'è gente, capito? Già entra l'uomo, è collegato l'altra radio, poi si è preso e in caso esce da favore, veramente molto molto bene. Si può dire che radio è o no? Sì, lui è amante del K, quindi non c'è problema. K, no, già vanno bene, non c'è problema, questo finché non mi lascia a piedi rimarrà sempre qua. Questo mi aveva fatto un'operazione chirurgica Fabrizio, questo era quello, ti ricordi, quello picchiato, e mi aveva cambiato tutti i condensatori, grazie a Dio facendo le corna è un treno. E questo non era il mio, questo l'avevo venduto io 6 anni fa, e lui è rientrato a me come il giorno che gli ho dato. È stata cambiata solo la batteria al litio, che appunto Fabrizio come fare, perché non l'avevo mai cambiato, l'ho cambiata, rimemorizzata, la radio è perfetta, questi sono dei muletti, non c'entra affatto, 430, 140, 70 sono dei muletti, 440, questo problema è il VCO, però anche quella è una bella radio, mi ha dato un sacco di soddisfazione. No, se sta andando, l'altro me l'aveva fatto quel problema del VCO, però se è stato sistemato, questo ce l'ho già diversi anni, me l'ha fatto Fabrizio, facendo le corna mai ceduto niente, e va bene. Cosa ti volevo dire? Sono Venera, Vabbè, la mattina risolta meglio così e basta. Così ti rimetto un altro ripiano, mi ha detto? Il Riaeggio 920 al gara ci mettono un sacco di posto, capito? Perché poi c'è l'820H in alto e l'altro Bulumbage in alto. In basso non ci sta più niente, quindi devo sollevare, devo gettare l'altro solaio, devo chiamare a calcestruzzi e gettare l'altro solaio. Sabato mattina noi abbiamo trovato quell'impegno con Fabrizio, mi dobbiamo portare via quella roba sul petto. Se non sai cosa va, vieni a darci una mano. Allora, non ti garantisco niente, perché tu non hai idea cosa devo fare tra sabato e domenica. Cioè, allora, c'è, vabbè, c'è quella mia cugina, quella che è venuta forse una visita in officina per rientrare lunedì negli Stati Uniti, c'era un mese fa, bene, una volta all'anno. Poi domenica devo andare a una sabata e mi ha invitato mio cognato. Domenica, che vai questa cosa? Non lo so, sicuramente è presto, adesso ci sentiremo domani con Fabri, capito? Perché oggi stamattina, oggi era di mattina, domani di mattina, e poi dovrebbe essere libero, mi pare, non lo so, devo sentirlo, domani lo sento, lo vediamo un pochino. Ma portarla da casa sua a cosa? Giù al mare? Sì, devo prendere le misure, tutto quello che serve giù lo portiamo giù, adesso lo portiamo qua. Capito, momentaneamente lo portiamo giù da qua, adesso vediamo. Ci dobbiamo mettere d'accordo, te l'ho detto, perché devo iniziare i lavori e lì deve essere già tutto pulito. Quindi deve scendere dal piano alto, diciamo, dal terrazzo, portarlo a terra. Si conferma, ci dovrebbe stare in ascensore, però non siamo sicuri se dobbiamo fare qualche viaggio anche a piedi, non lo so. Vediamo, è la roba piccola, mettiamo sicuramente tutto un ascensore, perché con le grandi ce le scenderemo a piedi, boh. O non so se organizziamo qualche corda, cosa ne so, Fabio Perifella, Luca Garganella, Punto Usai, e Belu, e chi non si rompe le lampade da sopra, dall'ultimo piano, qua. Niente, mi da capo anche tu, ammazza, e Belu, cari. Sono entrata adesso a casa, sono andata a fare un po' di spesa. Sto sgranocchiando un po' di mandorle, buone. Cazzo, una tira l'altra, ma adesso mi blocco, se no guai. E buoni i bombini da poi mangiare in mano. Intanto qua scherzando e ridendo, quando ero giù nell'Ogliazza c'era sempre questo aereo privato girando sopra Rugabo, mica non gliene è caduto lo sportello. Ma lo stavi dicendo l'altro giorno, ma cioè, gliene è caduto lo sportello dell'aereo, questi Piper. Ma grande, è tipo lo sportello di macchina, un po' più corto, però di altezza è più alto di quello della macchina. Addirittura, ma come è fasciato Rugabo, nessuno? Avanti, no. Aspetta, devo rispondere un pacco indietro, è arrivato un display oggi. Cioè accende ma non comanda il touch. Cioè dopo lo devo sistemare bene, riprendete voi. Eia. K di positivo, che lo diceva K di Rosmetro, K di positivo. Io e Luca lo diciamo sempre, un K di Rosmetro, K di positivo. Perché siete cocomani, tu Luca e tu e Luca. Vai, Perivella di legna. Ebbene, sta lì studiando, sai. Ma forse non ci stai andando. Non ne stanno facendo lezioni, no, riprenderanno adesso. Oh, vabbè, col caldo che c'era, certo. Solo te le fai fare, come si chiama, online. Sì, già ce l'ho quel corso completo. Ah, la tarì. Ma sono io, sono un po' come, è Roberto Quadrato, no? Ah, Roberto Quadrato è drogato, solo. Alcolista anonimo, vediamo se c'è qualche donato che vuole entrare, se no riprendi tu Claudio. No, aspetta un attimino, un secondo solo che mi cambio questo PL, un secondo, vai Natale. Io l'ho vista Claudio, ve l'ha appoggiata al muro la moto, manco la pedivella c'ha più, perché lui piega e ne ha perso la pedivella. Di legna me l'hanno fatta, di legna. Io lo so quanti l'ha fatta. Ah, già, se te l'ho detto. A proposito di pedivella, Antonio Bombolo sta cercando un motorino a buon prezzo. Se sentite qualcuno, io sto prendendo un po' in giro. Anche io lo sto cercando a buon prezzo, un motorino, cazzo. E Pirla me lo son venduto, ed era anche bello quello che avevo io, nuovo era. Ma mi sono serviti i soldi e l'ho dovuto vendere. C'è qualcuno in basso sotto, avanti che vuole entrare? Stai parlando però non capisco quello che dice, lo sentite voi? No, io non sento niente, neanche io. Dove, ma non sa propagazione, S7 qua. Va bene, cosa volevo dire? Buh, non c'è tanto, non c'è neanche. Anche tu il motorino sta cercando, Natalia. E allora, se lo guarda, oggi ho camminato un bel, mi fa, e guarda, c'avevo, guarda, morto, ne sono troppo tornato a casa, perché ho un difetto a una gamba che mi viene un dolore allucinante e mi devo fermare per forza. Per fare le piccole commissioni, non è altro, per non prendere la macchina che l'ho dovuta posteggiare qua, lontanissimo da qua, me ne sono dovuto venire a piedi, perché posteggio Nisba. Ma chi non ti vede un monopattino? Lì c'è mio nipote, quello piccolo, lui è sempre monopattino, andava a fare qualche commissione, mi pare che così, o 10 centesimi al minuto o 20 centesimi al minuto. No, non mi piace, un motorino me avrei voluto, 50 anche. Ma il motorino deve fare l'assicurazione, il mollo, vabbè, già una fesseria, deve avere il casco e tutto quanto. E Andrubi gli dirà già l'anno tutto, no? Avanti, che vuole entrare? Non ho parlato, ogni tanto si sente, ecco. E qua, quanto stai pagando di assicurazione? Tutto, Claudio si è allontanato, Luca è ancora operativo o si è impegnato? Ehi, tutti bugi bugi, insomma, da zine a venire di Dio ne si avviano. E anche io troppo stacco, dai, devo uscire, vabbè, qualche minuto che sono, le 8:10, già c'è ancora tempo. Cosa hai fatto gli anni, Natalì? Io ero avanti di ieri. Il 29 li ho fatti, e oggi già mi è costata, mi ho dovuto comprare il frigorifero nuovo, che mi si è crepato, perché mi si sono marcite le ceniere delle porte, perché c'ha due porte, e me lo sono dovuto comprare nuovo. Mi è costato. Per le cerniere? Non tenevano più le porte e non raffreddava più. Il gas c'era. Era dalle portiere proprio che non. Dalle porte del frigo che perdeva. Vabbè, se le cerniere sono rotte. Altre volte si trovano di qualche frigo di recupero, vabbè, ma ormai. Cos'è? Il congelatore sopra e il frigo sopra? No, al contrario, il congelatore sotto e il frigo sopra. Praticamente si è marcito dove ci sono le cerniere giù, no? Che mantiene quella del congelatore e quella del frigo. Quindi le porte non tenevano più, me lo sono dovuto comprare per forza. Stavo dicendo, i corsi quando li riprendono, Natalì? E adesso, non lo so se questa settimana, dopo guardo, tanto già mi mandano il messaggio quando riprendono, capito? Antonio stava facendo questo coso sopra Itili, c'è una specie di roccia, l'ho sentito l'altro giorno, una specie di, cioè dei collegamenti, adesso devono fare un award delle province italiane a settembre, non mi ricordo, mi ha mandato il messaggio, non me lo ricordo qua. E ne fanno attività in quell'associazione, la verità, attività ne fanno. Sì, ho visto, si divertono, hanno tante cose, lui è molto attivo, Antonio, uno appassionato, vabbè c'è anche il tempo di farlo, non c'è problema. Io ho fatto quello di Itili che avevano fatto, il diploma sarà arrivato, mi pare, terzo, no vabbè terzo no, sarò sui settimo, ottavo, vabbè ma non erano molto, qualche centinaio, mi pare erano tre o quattro, no, forse erano 700 i cacciatori, io sarò arrivato mi pare ottavo, nono. No. Ne sto facendo altri, guarda, ne ho di quei cose, ne ho diplomi, ne ho fatto in tutto 305, ce ne sono importanti a livello mondiale e sono in uno, sono una buona posizione, su 4.000 sono mi pare 29esimo. E figurati, se a livello mondiale te credo. No, no, ma segua, non per vantarmi, già lo sai Natale, non sono tipo che mi piace vantarmi, se tu entri su qrz.com dove sono i diplomi e cerchi le classifiche di tutti i diplomi, sono sempre tra i... In Sardegna uno mi aveva passato, adesso non viene nessuno, sono io quello che ha fatto, vabbè, forse perché mi sono messo più degli altri non mi ha fatto nulla da nessuno. C'ho delle buone posizioni, mi hanno mandato un sacco di cose, di attestati, qualcuno me lo sono stampato, me l'ho messo in cornice, ed è diciamo per iniziare, visto che sono alle prime armi, qualche soddisfazione te la prendi, dai, pure ai vecchi radioamatori non gliene ha funzionato, ne avranno fatto migliaia prima di me, però per me che sto iniziando è una soddisfazione. Ti credo, no, già ti sei dato a fare, tu lo so che ti sta bisogno a fare. cosa ti volevo dire, speriamo che mi vada bene stavolta, dai. Ma non mollare Natalia, devi sempre andare assiduamente alle lezioni, non andare ma di 3 giorni, poi stai una settimana non ci vai, poi ritorni, segui il programma, fai un sacrificio come ho fatto io un mesetto, neanche un mese ci ho messo per leggere, ripassare, ma mi sono messo d'impegno, ho detto no, la voce o la va la spacca, meno male è andata. E infatti, cosa ti volevo dire? No, io non ne ho perso una lezione, non ne ho perso una. Da quando è iniziato io non ne ho perso una di lezione. Infatti adesso guardo che mi mandano il messaggio quando riprendono e io vado. Se gli altri non vanno sono cavoli loro, io sono una persona seria. Dai. Ma allora stanno facendo di lavate docce? Ehi, c'è una sala lì grande e lo stiamo facendo lì. Ma anche da lì lo sta venendo? Mi sembra di sì, Adesso non riconosco i nomi di tutti perché siamo un bel po'. Aspetta, c'è qualcuno che chiama. Avanti, chi chiama? Entrane, vabbè, danne poi non entra. Ok, vediamo se Claudio c'è ancora. Vai, Natali. Ma cosa vuoi che ti dica? Le frequenze è sempre quella U sopra, a 600 sempre, ho variato a, perché io non ero attento in questi giorni. Ma vuoi aspetta parlare? In V già lo so che è sempre quella, ma in U avevano cambiato a 600, non so se l'hanno cambiata. Io sono a 550, prima era 525, poi l'hanno messo a 550, poi ti ripeto, sono da molto che non vado in quella banda, ecco per fiago di... cosa sta succedendo? Sento odore strano di qualche cosa sta bruciando, speriamo che non sia roba mia. A 550 io, 433 550. L'altra è 5.25, anche se tu adesso vai a 5.25 ci sono gli spagnoli in diretta, a fondo scala vi arrivano. Sì, vabbè, in inverno vedrai non arrivano più. E che poi alla fine diventa un po' assillante, perché tanti sposi mettono musica, c'è chi tu fissato con la chitarra, sempre mettendo musica, sempre musica, non capisco uno che vantaggio ne ha di attaccare una radio e farla lavorare, perché non penso che esca meno con 50 watt quello lì. Certamente non è un comportamento consono per un radioamatore, è un pirata e fa così, boh. Non è un comportamento corretto quello. Natale, dammi 5 secondi, devo guardare una cosa, arrivo subito. E K, sono qui. Eccomi. K, siamo qui. Ti c'è Claudio rientrato? No, non è rientrato ancora. Claudio? C'è un bel propagazione comunque oggi, c'erano poco fatti i dischi, a fondo scala mi arrivavano in FM. Oh, non posso riprendere, dai, che sto preparando la cena. Vi saluto e vi ascolto, un abbraccio. Sì, Natale, ci sentiamo. Va Natale. Abbiamo parlato in due, Natale. Ciao Claudio, grazie per le quattro chiacchiere, alle prossime, dai. Stavo dicendo Natale, c'è un po' di propagazione oggi, in FM sui canali un po' più alti, 22, 25, 30, 31 c'era gente, e poi in Madalatellare è sotto il 10. Infatti, purtroppo io non mi posso spostare con questo apparecchio che ha 40 canali solo, ed è bloccato, capito? Sto parlando dei canali normali, mica perché io metto altri canali, cioè, dall'1 al 40 sto dicendo. Okay. Adesso sono 40 canali. Questo è bloccato, non si vede, se no perdo l'omologazione se lo faccio aprire. Quindi niente. Vabbè dai, ti saluto che devo andare a regolare il frigo adesso. Ci sentiamo alle prossime, Robè. Grazie per le quattro chiacchiere, dai, ci sentiamo. Sì, grazie anche a te Natale, dai, io rimando ancora un attimino, faccio qualche chiamata che poi tra qualche minuto devo uscire. Ok, buon tutto, buon proseguo e buon carica frigo. Mettilo al minimo, d'estate non tenerlo troppo alto, sennò sta sempre compressore attaccato, tienilo a 2 Natale, così ti dura 10 anni in più. C'è qualcuno sul 10? Canale 10, avanti, qualcuno che vuole entrare. Buddha, va bene. sono poche che mi ho rimasto. Sento che gli urla e gli ho filmato Shanghai de Rora de Daily Night. Aspetta. Power, adesso ne sto dando 5, quindi sicuramente magari da 150 ne sto dando 130, 135. Già va bene lo stesso. E tu, tutto bene? Come dicono tu, qui sembra che sia tutto uguale come prima, il segnale è sempre uguale, è il mio. Sì, sì, no, è abbondante. No, lo dico, tutto bene a casa, siete rientrati, feri a posto. Proprio fretta passano, i primi giorni ha fatto un po' di brutto, la prima settimana, dai, qualche giorno di brutto, però ci abbiamo sistemato un po' di pulizia in casa, visto che era un anno chiuso, dai. E ne abbiamo approfittato per dare una bella ramazzata e poi è arrivato il caldo, anche troppo. Visto, ieri, oggi, dai, già si sta bene, non c'è problema. Ieri è scesa l'aria Alghero, io non c'ero, ma è scesa Anna. Caspita, c'era un diluvio. E anche in Umbria l'ha fatto, no? Anche qua ha piovuto. Ha piovuto la grande. Ma Alghero, come subito, è già tutto allagato. Giù nella passeggiata dice che c'era già l'acqua al marciapiede. Perché lì è sempre così al Lido, sempre. Sino a quando non rifanno le condotte nuove lì non c'è niente da fare, c'è drenaggio, i pozzetti poi sono tutti pieni di mondezza, non fatene nulla anche sul comune, perché dai, ascolta, è una rientrata lavoro. No, ancora stanno aspettando qualcosa, una roba burocratica, sono ancora in stand-by. Vabbè, no, già lo so, ti preoccupare, è più sopra che c'è la rientrata. Va bene, quindi dai, qua stanno tutto K e quindi già va bene così, dice quello. No, tutto ok. Credo, vabbè, io non è che mi scrivo i segnali, però mi ricordo che agganciato arrivavi a quei livelli sempre, dato dal 9. Sì, quest'anno hanno cambiato cooperativo e quindi non si sa come andrà a finire, almeno un po' questi che entrano, sono in fase di assestamento. Ho capito, fra. Andare. E niente, l'aria attorno ai massacranti, adesso poi c'è la cavalcata, quindi sai, lo facciamo qua loro, lo prendono in pieno, e quindi niente, deve combattere anche lì, e mo' vediamo. È importante che lavori anche lì, dai, è più tranquilla e più serena, certo, sono giornate dove c'è la scivola di testa. E giornate più tranquille magari. Però anche io, tanto c'era il mondo. Io non so, sì, già c'è andata l'aria. C'è andata, c'è la cugina, c'è andata con delle amiche, è rientrata che erano alle 4 del mattino mi sembra. E noi stiamo uscendo spesso e volentieri in bicicletta con gli amici, meno male abbiamo degli amici che ci spronano anche loro a uscire in bicicletta, quindi anche a mangiare fuori, ci trovavamo davanti al ristorante, una catenina, a volte neanche la catena perché ero proprio col tavolino a fianco alla bicicletta. Così c'è il bello, avanti non preparare a cercare il parcheggio e tutto. No, domenica l'aria è uscita. Erano, non mi ricordo, siamo a Pratamona, da qualche parte, e poi se andiamo a Ghera, sono a Francia, sono rientrato alle 4 di mattina, ma lì esce poco, perché poi lunedì era a riposo, capito, quindi già gli ha fatto bene uscire, anche se io non è che sono molto d'accordo a rientrare così tardi, perché sai, c'è sempre traffico, infatti hanno trovato un incidente. Sì, bisogna stare attenti, sia a noi che agli altri, va. Sì, non è stato qualche incidente, già l'abbiamo beccato anche noi. Comunque, tutto sommato è andato bene, dai. Poi ero con la macchina grande, quindi non è troppo. Già a volte ne devo trovare anche con la smart, figurati con la macchina grande. E abbiamo deciso di uscire in bicicletta, dai. Ma te l'hai parcheggiata a casa e siete usciti in bicicletta? Sì, la lasciamo a casa la macchina. Tanto già siamo vicini, noi in 5 minuti siamo già al mare, in passeggiata. Ma è anche una bicicletta, la sa portare la bicicletta? Sì, lo credo, sì, se l'ha cambiata, anzi quest'anno si è preso quella più grande, la 26, l'altra era la 24, l'abbiamo venduta, abbiamo preso questa, una bella bicicletta, da passeggio col cambio però. No, ma il cestino messo gliel'hai per fare la spesa? No, no, era già completa, c'era tutto. C'è il cestino, le luci davanti, dietro. Io, vabbè, mi ho messo quelle a batteria, invece lei c'ha dietro la batteria, davanti c'è la quella dinamo, però mi sa che gliela metto anche a lei con la batteria, almeno non fatica, fatica di meno, dai, perché la Nino non sembra così, ma non me l'ho fatta girare, dai. Ah beh certo, se no non carica, non rulla, già va bene, cappa. Un bel catenaccio, beh, a volte le prendevo tutte e quattro, anche sia le mie che quelle dei miei amici, anzi anche cinque le ho prese una volta. Addirittura, ehi, e cioè la catena va a pagliare i buchi. Diciamo è fatta a spirale, mi. La metti sotto la sella e c'ha roba di 5 o 6 giri, quando la allunghi diventa 2 metri più o meno, quando la accorci la voce sembra una frittella e diventa piccola, sotto la sella ci sta, giusta. E senza chiave pure a combinazione, quindi non c'è problema neanche di portarti le chiavi appresso. Ah, è quelli che c'hanno il rullino, va. Il blocchetto piccolino è praticamente la chiusura della catena, hai già capito? Sì, è un po' massiccia, un po' grossa, dai, non è, ce ne sono anche più piccoline, questa è bella massiccia. Ma va già bene, non c'è problema. Ma poi non toccano le biciclette, non toccano niente, già sta a posto di Alghero. Non è così, no, perché ho visto ogni tanto qualche annuncio, lo leggo, mi, Alghero sparite due biciclette, bianchi, non so che cosa, già le fregano, già. E che c'è un montinaggio di quei monopattini, quelli elettrici, le trovi dappertutto, buttati sopra il marciapiede, in mezzo alla strada, nel prato inglese, in mezzo alla sabbia, qualcuno se ne fa un muramoglio nel porto. Perché quando terminano il credito i biglietti li rapano, capito? Non è che li mettono a posto e tanto poi passano a ritirare, no, i biglietti li rapano tutti. Ah no, tu quando lo lasci devi fargli la foto e inviargliela, quindi tu lo lasci in ordine. E che dopo la foto puoi fare quello che vuoi, capito? O tu o gli altri. Ma non tanto tu, ma quanto gli altri, fra, capito? Tu puoi dire, io la foto te l'ho mandata, l'ho lasciato a posto, poi mai 5 minuti dopo lo prendi e ce lo butti in mare. Molti se li smontano, le tolgono le batterie, pezzi che possono riutilizzare, perché siccome c'è il GPS, hanno il GPS incorporato, capito? Perché poi passano a ritirarli loro con i furgoni. Sì, ce li ha anche il figlio di Walter, ce li ha anche l'Alghero Marco, quindi c'è un furgone attrezzato con tutte le furgone officina, diciamo, e poi passa le vettine. Sì, sta andando alla grande, Alghero è pieno, c'è l'invasione, guarda, sono varie macchine, quindi sicuramente ci sono varie gestioni che hanno questi affari qua, dai, ma li trovi dappertutto, fino a Fertilia, poi finiscono il credito, così te lo lasciano dove capita. Io lo so, già ne ho visto, anche a Sassari fanno così, abbandonano, chiappa. La signora come sta? Ehi, già sta bene, tira avanti anche piano piano, drucchi. Il cagnolino? Quello, quel porco, quel cazzo sotto la televisione, sta già russando. Già tu nascendi? Allora, dopo che va a fare palle tutto il giorno, alla fine crolla. C'è propagazione? Siamo agganciati tutti e due, evidentemente ci sentono. Io sento appena qualcosa, ma non capisco nulla, tu magari sei più aperto, senti qualcosa. Ehi, qualche francese ogni tanto chiama, ma non so parlare francese, ma non appena parlo italiano. Allora, castrese da vedere. E ci scendi la cavalcata, o scappi anche tu? La cavalcata, buono, non l'ho mai vista io. Non l'ho mai vista la cavalcata, non era una festa grande, nei candelieri, sono cose che non mi interessano, fare andare a farti cazzicare bene, no? Assolutamente. Io vorrei vedere quelli di Nusi che ancora non li ho mai visti, la verità. E ogni anno invece me li perdo. Mi hanno anche invitato quest'anno degli amici. Però non sei Alghero, sei rimasta da gana, mi fai tutta quella strada. Ti dico solo che quei nubi sono tre, sono altri 20 metri, li portano 18 persone, 18 persone uno, 18 persone l'altro, se tu lo capito. È una cosa bellissima, sono enormi, sono solo tre, ma Loro mio peccato, 18 persone ci sono per mantenere. Infatti, almeno una volta li voglio vedere, poi lo so che ogni anno è quasi sempre la stessa cosa. Però quelli mi mancano, sa se li ho visti qualche volta, quest'anno no, però qualche volta li ho visti. Quelli mi mancano. Potrei andare anche così quando sono dentro la chiesa mia a vederli, però non è la stessa cosa, vederli in giro. Non devo andare alla lontana, capito? Dopo 2 giorni mi prendono, mi mettono a posto, c'è la festa sempre, io ci ho lavorato lì, quindi ti so dire vita e miracoli, ma è una cosa bellissima. Quelli li ho visti tantissime volte perché mi piacciono, ma questi non posso andare a vedere un pezzo legno, farlo guardare, guardami la vostra di yo-yo. Buonasera, vedi. Cazzo, quelli non fanno ballare niente, sì, lo muovono, fanno, no, non fanno questo casino e fate i visti, capito? Si mettono lì, farlo guardare, ma cosa li fa guardare? Cammina, si devi camminare. E ormai sta diventando una cosa, fanno le coreografie, no? Sono in competizione uno con l'altro, sta perdendo forse un po' l'aspetto religioso, magari. Sì, beh, quando ero ragazzo io magari ce n'era un po' diverso, hanno fatto vedere anche dei pezzi degli anni 90, capito come erano prima, come sono adesso, ma la tradizione è quella, cioè, è sempre la stessa storia, capito? Ma lì, poi, tutti ammassati, uno che si respirava contro l'altro, senza mascherina, senza nulla, no, non funziona così, fra. E anche quello un po' per scoraggiato, perché sicuramente c'era un casino di gente. Quest'anno poi c'eravamo anche il nostro candeliere degli autoperotranvieri, poi chi c'era? Un altro nuovo ce n'era forse, quello di veramente, 2 nuovi ce n'erano poi. C'era quello dei macellai, no? Quello ortolani, guarda. Io non ci capisco niente, però ti ripeto, è una cosa che non mi attira. No, scusa, viandanti, non me la metto. Vabbè, il Fabri c'era già, mi sembra, quello di Fabri l'anno scorso, 2 anni fa. Quest'anno c'era in più anche quello delle autoferrotranvieri. C'ho un collega, lo stesso, che è passato a fare l'acquisto, mi ha chiesto un po' di soldini, qualcosa abbiamo dato, dai, per aiutarli. Sì, a farlo bandare, c'è una bombarda, per forza. Abbiamo fatto fatti andare voi col pullman, facevate prima perché vestire il candeliere. Ma sono andato allo spettro, e dietro anche vuole fare il nome che l'ha fatto, chi l'ha dipinto, cose fare, ma non mi è venuto. Però già, molto contento, lui, sono molto soddisfatto. Beh, sicuramente è una bella festa. Adesso questa cavalca passata, non so cosa c'è. Ogni anno la stessa trattata. Tutti questi costumi sciali che sfilano. Capito? Hanno arrivato Piazza Italia, che poi Piazza Colombo. Questa cosa che hanno fatto, questo palco, quanti se li buttati, cazzo, se loro aiutati i poveri invece di buttarli queste stronzate. Bisogna pagarci un po' di bollette magari. Già piazzata l'hanno le tribune? Allora, no, già andato, è stato da ieri. E ieri mi pare l'aria. Hanno fatto togliere tutto il Giordano, hanno fatto togliere tutto il termo che era fuori, tutte le serie, tutto. Magari lo stesso hanno fatto spostare tutto l'altra parte, sotto il porticchiazzo. Sono invitato tutto Piazza Italia, vorrei vedere cosa. 4 scimmie facendo la sciata. Stanno aumentando un po' di segnali, ma forse stanno scaldando le cose, un valvolare. Questo? No. Ha sintonizzato, è dentro il contenuto, è dentro la radio. C'è dentro la radio, capito, non lo vedi. Tanto io uso l'interruttore, è quello del dove c'è l'ecco, capito, è stata tolta la scheda ecco. Basta. E così è sollevato l'interruttore, lo posso fare anche in diretta, cioè così è abbassato l'interruttore, guarda quanto abbassa, così è abbassato e così è sollevato, hai visto? Una freccia, no, adesso proprio no, è staccato, poco fa di tu avevi anche un po' diminuito, invece adesso sei di nuovo, no, è spaccato. Ehi, ti va bene, una bella radio questa, c'è un bel di gente che mi corteggia, ma rimane qua, tanto quando la dai, cosa hai dato, 200 euro, c'è 50 euro perché c'è linea dentro, beh, cosa hai fatto? Cosa ne fai di te? C'è un biglietto in culo. Non mi interessa, rimane qua. E lo uso anche perché mi piace, c'è una bellissima ricezione, pure adesso che c'è un po' di potenza, capito? Cioè lo posso usare con potenza minima o con potenza massima. Neanche col capo arrivi a questi livelli. No, perché non ho detto che la radio è un bel forte, no, è... C'è un metame, guarda, se sollevo ancora, guarda, ora, ora, ora, vedi quanto, quanto è più forte la modulazione. No, è fortissima, è forte la modulazione. Infatti, ma non se ne accorgo, tu hai col capo, stai andando, rubi per capo e butta, no, vedi, rugare, se non rugare. Gatta, rubi per capo. Io, per noi, ce l'ho messo una volta, ne si è ottanto, il bip a 5. Con il microfono? No, la scheda BP l'hanno messo, la scheda BP all'interno si 80. Come rovinare un HF? Sì, vabbè, quello gli avevo venduto io, l'ho tenuto 10 anni, adesso gli ho venduto un altro, 140.